intanto vi do il benvenuto e alcune informazioni. Questa serata fa parte di un programma della Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, che ha sede qua sotto presso il centro Trevi, con un'entrata però dall'angolo via Marconi, e da qualche anno appunto ci siamo trasferiti qui. Organizziamo puntualmente ogni settimana degli incontri con autori, autrici, oppure dei dibattiti, come è il caso di questa sera, che abbiamo con noi Adel Jabbar, sociologo, lo conoscete, è molto attivo sul territorio e non solo, e diciamo che le sue conferenze sono sempre volte a far conoscere gli aspetti sociali, geopolitici, in un taglio anche storico, di quelli che sono territori a noi lontani e vicini, perché non c'è, no, non si può definire, sì, forse fisicamente un po' lontani, ma in realtà è una realtà che ci circonda, di cui siamo permeati e dove c'è uno scambio reciproco. È un profondo conoscitore chiaramente anche della questione orientale, di questa non ne sappiamo mai abbastanza, abbiamo bisogno continuamente di informarci e di avere così delle nuove idee e soprattutto dei nuovi stimoli di approfondimento. L'occasione questa di questa sera che si ripropone sempre appunto con l'aiuto di Adel Jabbar, e la conferenza intitolata Orienti in Occidente. Si pensava poi di fare un sequel in autunno, speriamo appunto di riuscire ad organizzarlo, ma la volontà c'è di fare invece un titolo nuovo. Occidenti in Oriente. Quindi insomma preparatevi, tenetevi liberi, ecco una promessa, e quindi niente, intanto ci godiamo questa serata, ascoltiamo quello che ha da raccontarci di interessante Adel Jabbar, e come tutte le biblioteche hanno una missione, anche la nostra, quella di promuovere la lettura e la conoscenza, pertanto abbiamo anche proposto una selezione di alcuni titoli che vi invitiamo a guardare e, se avete piacere, eventualmente di prendere in prestito qui oppure di tornare a trovarci nei prossimi giorni, come detto, qui al piano terra con l'entrata in via Marconi. Approfitto sempre di queste occasioni per ricordare anche altre attività, in particolare giovedì 2 maggio riprende il terzo ciclo di BiblioWeb, quindi questi corsi gratuiti per imparare ad usare la piattaforma che permette gratuitamente a tutti gli iscritti di scaricare ebook, di prendere in prestito degli ebook oppure dei file musicali, i film, e leggere soprattutto anche quotidiani in 50 e più lingue. Basta essere iscritti alla biblioteca, e comunque per avere magari maggiore confidenza con questi strumenti c'è un corso che viene fornito gratuitamente presso la biblioteca di giovedì dalle 16 alle 17, sempre al piano terra. Prossimo appuntamento invece con la lettura sarà lunedì 6 maggio, sempre alle 18, sempre in questa sala, con il nuovo romanzo di Giovanni Accardo, che sarà accompagnato da Gabriele Di Luca e Paolo Mazzuccato. Ringrazio ancora Adel Jabbar per la sua presenza, per la serata che ci regala questa volta, ecco, e auguro a tutti voi una piacevole serata qui con noi, con la biblioteca. Grazie. Grazie. Grazie alla dottoressa Trevisan per questa presentazione e per sempre per le sue disponibilità di accogliere la mia proposta di attivare alcune idee in questo bellissimo spazio che è il Centro Trevisan. E grazie a voi, naturalmente, che mi fa piacere vedere di volte che conosco, altre volte che non conosco, ma sempre un piacere comunque conversare insieme. Io sono sempre del parere che le mie conversazioni sono finalizzate a contribuire a riflettere e anche ad interrogarci, porre delle domande più che portare delle ricette o eventualmente offrire delle verità. Insomma, i temi della nostra umanità sono tanti, complessi, complicati, e quindi richiedono sempre una disponibilità a porsi delle domande. A volte le domande sono spigolose, ma sono necessarie per comprendere le vicende umane. E come vedete, la conversazione è divisa in tre parti. Una parte è una premessa veloce didattica, però cercherò di non essere luminoso. Invece la seconda parte è un giro, fondamentalmente farò una pubblicità progresso per alcuni luoghi secondo me curiosi e interessanti in Italia, meritano di essere visitati, forse alcuni di questi luoghi alcuni di voi conoscono, ma comunque sono luoghi, a mio parere, raccontano la storia in qualche modo della nostra umanità, che fate di intrecci e di connessioni. E invece una terza parte, un viaggio tra le pitture, quel filone famoso, insomma, il filone orientalistico, che ha già una certa immagine dell'Oriente, soprattutto l'Oriente arabo-islamico, condizionato molto dalle mille e una notte. E questa parola qua, le mille e una notte che tutti conosciamo, che abbiamo letto alcuni racconti, abbiamo visto di cartoni animati, film, e infatti in alcune di queste immagini che farò vedere sono stati girati dei film con il titolo Le mille e una notte in questi luoghi che vedremo dopo. Quindi vedete, questa è la carta del mondo partendo dal nostro titolo Oriente e Occidente. Naturalmente queste mi hanno sempre incuriosito, davvero da piccolo sono sempre stato affascinato dalla geografia e dalla storia, sempre giravo da piccolo fino insomma, a una certa età anche adolescenziale con un atlante. E nella mia città natale, che è Baghdad, dove si sono svolte tante storie di questa nostra umanità, e quindi ero curioso a capire le intrecci che sono avvenute in quel luogo lì. E quindi la parola Oriente Occidente sono definizioni arbitrarie e molto vaghe, e poi in varie epoche sono cambiate, quindi già i greci, Aristotele stesso guardava i persiani in un certo modo, quindi l'Oriente è sempre stato in parte affascinava, e dall'altra parte anche la fonte del pericolo. No? Dall'Oriente sono arrivate le filosofie, le religioni, le spezie, i tessuti, le pietre preziose, quindi sempre stato l'Oriente nelle sue varie sfumature un luogo che esercitava fortissima attrazione, soprattutto anche fortissima attrazione per quanto riguarda quindi l'appropriarsi della ricchezza dell'Oriente. Anche come vedete, se vedete l'Europa occidentale, no, è piccolissima, questa carta qua è piccola, e quindi oggi, se ragioniamo oggi nel mondo globalizzato, effettivamente dove sta l'Oriente e dove sta l'Occidente? E perché oggi definiamo alcuni paesi occidentali? Che cos'è che li accomuna? Li accomuna fondamentalmente il sistema capitalistico, che è riuscito a fermarsi in alcuni luoghi del mondo, e questi luoghi hanno esercitato poi una forte influenza sul resto del mondo. E quindi dove noi siamo collocati è l'Occidente per eccellenza. E poi dopo la conquista apro parentesi, tornando indietro, non dimentichiamo che poi l'impero romano d'Oriente e d'Occidente, no? Per tot secoli hanno conteso diversi territori, una parte del mondo arabo che è il sud del Mediterraneo oggi faceva parte dell'impero di Occidente, allora l'impero romano d'Occidente. Vabbè, al di là di questi dettagli così insomma storici, geopolitici del passato, oggi cos'è l'Occidente? Questa parte blu, Australia, Nuova Zelanda, e Stati Uniti, Canada e l'Europa occidentale, insomma l'Europa qui noi oggi siamo in una parte di questa Europa siamo presenti. Poi l'America Latina è un appendice, no? Un po' azzurro, timido, perché per il fatto che comunque l'elite che ha governato questi paesi qua, l'elite fondamentalmente occidentale, di formazione occidentale, no? Tranne alcune esperienze ultime in Bolivia o Chavez in Venezuela. Per il resto sono sempre state l'elite di origine europea. E quindi, come vedete anche oggi, qua la zona blu non corrisponde più, perché se per Occidente significa l'Occidente il sistema liberale sul piano politico e sul piano economico e capitalistico, c'è il Giappone, c'è la Corea del Sud. La Cina oggi magari non liberale sul piano politico, ma è un paese capitalistico. La Russia stessa in parte è ormai capitalistica anche essa, in parte un timido sistema liberale controllato insomma in modo tra virgolette autoritario. Per cui quello che sto per dire è che queste due diciture, Oriente e Occidente, richiedono un ripensamento di come trarre alla realtà di oggi, e la realtà si presenta molto, molto complessa. E del resto, il resto del mondo dove va? C'è l'Africa, è Occidente o Oriente? Per cui quello che dicevo prima sono termini vaghi e sono termini arbitrari. Fino a qua ho finito la mia premessa didattica, anche perché è stata questa mia curiosità, sempre mi sono interrogato questo Oriente Occidente, in cosa consiste, anche perché quando oggi parliamo anche di cultura, la cultura sempre c'è una parola che a diverse persone non piace, sincretismo, e però la cultura sono tutte fatta di sincretismo. Perché? Perché la cultura è un prodotto umano e gli umani per natura camminano, quando camminano entrano in contatto. Per cui non c'è una rottura con una cultura precedente o una cultura nuova, sempre c'è una continuità tra i diversi contesti culturali e anche tra i vari bagagli culturali. Per questo ogni realtà oggi per definizione e per definizione è multiculturale, sincritica la cultura, per natura. Ci siete qua? Sì. Siete già annoiati? No. Allora, nel momento in cui la cultura in generale, ogni cultura è fatta del camminare delle persone, quindi è un cammino, ogni cultura e la cultura è un cammino, dove le persone si incontrano, scambiano, relazionano, si contrappongono, soprattutto quando si trovano in uno spazio ben preciso, si apre un contenzioso, una disputa, chi ha maggiore legittimità su quello spazio lì, e quindi le frizioni fanno parte degli incontri. Ci siete? Sì. Non vi spaventate, potete incontrarlo lo stesso, le frizioni fanno bene alla mente, ci fanno interrogarci, no? Quindi per evitare, perché le persone quando hanno troppe certezze diventano pericolose, quindi è meglio affrontare il dubbio che andare alla ricerca della certezza, perché è pericolosissimo e la storia ha dimostrato e dimostra ancora oggi che forse di cercare certezza si combinano diverse cose. Passo al tour turistico, partendo da questa immagine che a mio parere non è un'immagine, come dire, un paradigma del camminare dell'essere umano, soprattutto negli ultimi 500 anni. E io vi faccio partecipare, vorrei che voi foste partecipi in questa conversazione e vi chiedo: questo luogo che cos'è e dove si trova? Chi lo sa, cerca di per favore di non pronunciarsi, perché la maggioranza non lo sa. Prego. senza drogo, non aprire qui la bocca a guardare, ve lo fate vedere perché lo so che non è decifrabile facilmente, però è importante questo, secondo me questo è l'insegnamento importante di quello che dicevo prima, che la cultura o le culture sono un prodotto del camminare. Qualcuno è coraggioso? Qualcuna coraggiosa, perché di solito le donne sono più acute. Intanto ci sono pochi uomini, posso anche permettermi. Dai un paio, una di destra o una di sinistra, così per non fare. Alessia va. Forse Genova. Forse Genova, Alessia. Grazie. E perché? Mi ha colpito il colore del palazzo. Colore del palazzo. La decorazione. La presenza di persone? Di persone genovesi. genovesi. Che hanno avuto spesso rapporti con il mondo. Destra, chi vuole offrire? Ci abbiamo quattro giovani. Uno di voi che può offrire un'intuizione? Prego? Non saprei. Un altro che saprebbe? Ivo. Ivo secondo me sa tutto. No, sei scoraggiante, hai detto che gli uomini sono meno acuti, no? Perché è difficilissimo da indovinare. È difficile, però la complessità di territorio, di contesti è questa. Tendiamo a semplificare a volte, no? Sicuramente siamo. Senza sospiri, per favore, dire una cosa. Salvatore, sei un uomo coraggioso. Milano. Milano. Dunque, Africa. Allora, questo edificio qua è un edificio di stile barocco. Si trova effettivamente in Africa. Dove però in Africa? Senegal. In Nigeria. Quindi però Nigeria, un paese, ha avuto influenza inglese. Quindi gli edifici pubblici o edifici di culto dovrebbero essere di stile gotico, ma questo qua è barocco. Nella città di Lagos, come è arrivato un edificio barocco nella città di Lagos? E da sapere che questo luogo qua è una moschea. Ma cos'è? C'è la stella e anche... La stella è mezzaluna. Sì, vabbè, è anche... Sì, però non è appunto... Non ci è sono anche provare della luna. C'ha questo simbolo qua. E questo è stato costruito dai discendenti degli schiavi africani che sono stati deportati in Brasile, i loro avi. E al loro ritorno in Africa, questi qua, hanno costruito un edificio di culto e moschea. Perché? Perché in Brasile la costruzione è un paese che ha avuto forte influenza portoghese, quindi i portoghesi costruivano gli edifici in stile barocco. È il giro del mondo questo, no? Con un'immagine. Noi vediamo l'Africa, il Portogallo, no? L'Islam, la moschea, e il Brasile, no? Quindi quello che dico, un'immagine che sempre mi ha molto attratto come esempio, come prodotto del camminare delle persone, a volte un cammino forzato, in questa casa qua, a volte un cammino per scelta. E alcuni cammini per curiosità, per divertimento, ma comunque la nostra umanità viva da camminare. Bene, ora dove siamo? In Italia. Questa la so, Guarda, sai. E siamo in Italia, però dove? Qualcuno può contribuire? In Italia dove? Toscana. Toscana? Siete vicini, non siete lontani. Questo è un curiosissimo luogo costruite da un conte, un politico letterario, medico autodidatta, diventata ricchissimo, si è costruito questo castello nella località Savignano, nel comune di Grezzana Morandi, non lontana da Bologna, nella Valle Corretta. C'è questo luogo qua. Questo luogo qua, come vedete, è un po' arabesco, è un po' la cupola, questo qua ortodosso, russo. All'interno sono archi di moschee che possiamo trovare a Damasco, la stessa della moschea del profeta in Arabia Saudita, le archi sono di questo tipo qua, possiamo trovare questo tipo di archi in Spagna, in Toscana ci sono molti di questi, no? Questa struttura di chiese con questi due colori. E questo luogo qua è stato costruito nella metà 1850 più o meno, seconda metà dell'Ottocento, un luogo, come dicevo prima, un luogo anche bizzarro, molto, come dire, c'è anche un salone di leoni come per imitare il palazzo dell'Ambra a Granada. E vedete qui, si ripete un po' questo, l'influenza della Milanotte. L'influenza della Milanotte ha durato dall'inizio del 1700, con la prima traduzione del libro della Milanotte in francese, e ha durato fino al 1968, poi vedremo, nella provincia di Lecco. L'evocazione di luoghi della Milanotte. E questo è dove siamo qua, un altro luogo molto interessante. Questo, considerate l'edificio di stile orientalistico, uno dei più importanti in Italia, dove sono stati girati tantissimi film, questo, anche i sceneggiati, fra cui il film Le Mille e una Notte di Pasolini, Le Mille e una Notte, uno dello stesso titolo quasi, di Margheriti, Antonio Margheriti, Alberto Sordi, Sono un essere paranormale, un film di Alberto Sordi girato in questo spazio qua. Cosa siamo in Toscana, provincia di Firenze, nel comune di Leccio, le località devo leggere, Rigello, costruito da un discendente di una famiglia, la famiglia d'Aragona, che erano insomma vicini alla famiglia di Medici, e quindi questa è una storia lunga, però l'edificio è quello di oggi, è del 1000, sempre lì, della seconda metà del 1850, anche questo circa. E questi luoghi, entrambi, diciamo Rocco Mattei e più questo qua, sono un po' luoghi ormai abbandonati. Questo soprattutto è stato acquisito da una società italo-inglese, poi è fallita, poi nel 2017 c'è stata una gara, ha vinto la gara un gruppo degli Emirati, poi è stato sospeso, quindi è una storia abbastanza complicata. Volevano trasformarlo in un albergo di lusso, qui c'è stato in passato, si dice che Carlo V, dopo aver battezzato il figlio del Papa di allora, tornando ha avuto un periodo di soggiorno in questo luogo qua. Questo è il suo interno, questa è una meraviglia. È proprio bellissimo. Questi alcuni, questo forse c'è qualche problema, perché dicevano che nel 1850 era Enrico IV, no prima prima Carlo V, prima poi gli emergere. Questo, questo perché questo luogo qua è stato un altro tipo di edificio, e quindi si risale che era in qualche modo un luogo comunque edificato nel periodo romano, poi mano a mano insomma è stato comunque ricostruito, però questa costruzione è del 1850. Questo è all'interno un altro spazio, ci sono 160 stanze e luoghi all'interno di questo, come vedete, molto curato, di una bellezza unica, quindi sicuramente è chiaro il stile orientalistico. E qui dove siamo? Ma voi quindi ci siete mai stati in Italia in giro o siete, siete chilometro zero? Ecologicamente, ecologicamente garantiti, chilometro zero proprio. Venezia. Ah? Venezia. E siamo un po' giù, un po' là. Sicilia, la Catania, via Umberto I. Sapete chi è Umberto I almeno? Neanche quello? Troppo sì. Allora, e questo è un altro edificio arabesco dell'inizio del, insomma, del 1900, e oggi è un luogo in pratica viene dato insomma, in affitto agli studenti, quindi potete immaginare che condizione è. E sì. Qua questo lo conoscete? Sì. No, eh? Interrompo la conferenza. Sembra nuovo. Sì, infatti questo è un albergo, terme, in Puglia, Cesaria. Ah sì. Cesaria o Cesaria, come si dice? Come si pronuncia? Un luogo molto rinomato, insomma, questo. E, bene, adesso arriviamo in luoghi non particolarmente lontani. È un minaretto, giusto? A Cremona. Bravo, Ivo, ho detto che conoscevi tutto. Questa. Ci hai bastonato fino adesso. Ti sorgoglio. Questa è Cremona, è un campanile a forma di minaretto di un convento proprio al centro di Cremona. Me l'ha dedicato un mio amico artista di Cremona. E questo invece dov'è? Io vi direi le cittadinanze italiane. Anche questa Cremona. Va bene, come è stato a Cremona? Questa qua, vedete questo minaretto qua, questo è un minaretto molto curioso. Oggi questo minaretto qua ha degli esemplari a Seattle. Io pochi giorni fa sono stato nell'ex Jugoslavia e stanno costruendo una chiesa ortodossa con questo tipo di campanile a forma di spirale. Questo si trova un modello molto antico in Iraq, a Baghdad, e poi, come vi faccio vedere adesso, questa è la moschea d'Egitto, vedete che la somiglianza. E anche questa è una casa di aristocratici cremonesi, con, sapete che nel secondo Ottocento c'è stata questa moda di arabeschi, cineserie, orientalismo, che poi lo troviamo anche nella casa di Giardone, di D'Annunzio, la stanza piena di cineserie, di cose indiane. Anche nel palazzo degli Asburgo a Vienna. Sì, l'Asburgo, anche qua abbiamo. Anche dal vescovo sopra il Sabato. Sì, abbiamo degli affreschi in palazzo dove ci sono. E quindi c'è stata questa moda e l'aristocrazia in molti paesi europei trovava o cercava di trovare un rifugio nell'orientalismo immaginato per arginare la modernizzazione, l'industrializzazione che spaventava l'aristocrazia. E quindi l'Oriente rappresentava un rifugio. Cosa succede? Che questo luogo oggi è circondato da capannoni e da centri commerciali. Quindi la storia non perdona. No. Questo è uno schema medievale, come dicevo, in Egitto, al Cairo. Questo Palermo. Luogo, Palermo. Sì, veloci. Guarda che non ci sono pagelle, è vero? Di Teresa Trevisan? Non lo so, perché qua si mette... Qua. Qua, Ivo? No, è sempre no. Spagna. Questa è una chiesa tipicamente russa. Ortodossa russa, però la domanda è come mai è circondata di palma? Perché i dettagli sono importanti. In Russia la palma sarebbe un miracolo. No, è in Crimea. In Crimea. Questa è Sanremo in Liguria, una chiesa che è stata costruita da una zarina russa. E come sapete la corte russa frequentava la Francia, quindi anche la Costa Azzurra, e questa zarina ha voluto cambiare un po', si è spostata verso l'Italia di oggi, e quindi è nata questa chiesa ortodossa russa circondata da palme, un albero arabo per eccellenza e mediterraneo. Questa? Pagoda. Monaco. Questa è Pagoda, sempre in Liguria. Non sai c'è una cosa sì. A Pelli, una piccola cittadina in periferia di Genova, si trova questa pagoda in una villa che è stata costruita da una famiglia albanese. Infatti questa villa si chiama Durazzo. Era un conto. Conte, che hanno avuto un ruolo importante poi durante l'amministrazione napoleonica. Infatti si è portato nel Panteone in Francia. Bravo. I discendenti di questa famiglia. Ora siamo a Rovereto. Il Ponte Santa Maria che collega, qua c'è il municipio dove c'è il scuro e si va verso il quartiere Santa Maria. C'è quel palazzo lì coperto di legno, adesso è stato ristrutturato, una tipica casa turca araba. Infatti viene chiamata la casa turca. È stata costruita nel periodo veneziano, si dice, da commercianti del Levante. E la documentazione su questa casa qua si trova nella biblioteca coriniana di Venezia. Allora vedete qua alcuni dettagli della casa. Qui siamo ad Aleppo, quando era ancora intatta, la somiglianza. Quando era intatta. Quasi identico. Qua siamo nella città di Hania, a Creta, e la storia di questa chiesa è una chiesa molto interessante, perché quando era la chiesa ortodossa, sono arrivati i veneziani, l'hanno trasformata in una chiesa cattolica, sono arrivati gli ottomani, l'hanno trasformata in moschea, sono tornati gli ortodossi, l'hanno recuperata la sua natura ortodossa, però la cosa curiosa è che è bella, che io chiamo questa cosa qua, il dialogo della pietra, è rimasta il minareto, è vicino il campanile. Questo è un insegnamento che la pietra possono stare assieme, e quindi gli uomini e le donne dovrebbero imparare qualcosa dalla pietra. Questa la sua. Questa la sapete. Ah, si vede che è l'attrazione del nord, eh? Questa la sapete, perché c'è scritto. No, perché bastardo. Sentivamo tutti un po'. Questa viene chiamata una moschea, però non è una moschea. Non ha mai funzionato come una moschea, anche questa è un'imitazione, un stile orientalistico che andava di moda. Quindi in Germania, vicino a Monaco, si è costruita questa moschea, però non ha mai svolto la funzione di moschea. Un edificio bello, artisticamente, però non ha avuto. Oh. questo è il padiglione del tè. Nel prato, nel, come si chiama il prato vicino a Berlino, Potsdam, Sanssouci? Sanssouci. E questo anche del, questo metà dell'Ottocento, quindi siamo nel 1700 qualcosa, uno di Federico I, II, insomma, che hanno governato allora, si è costruito questo, vedete che statua, si vede allora statua che non fisionomia cinese. E all'interno anche i personaggi sul, nel soffitto della coppola sono fisionomia cinese. All'esterno vedete anche il cappello, la forma dell'abbigliamento. E questa è una moschea, ma non è una stazione idrica. Che è una pompa, una stazione di pompaggio nel prato di Sanssouci, che è stata costruita nel metà dell'Ottocento, nel 1900, è a forma di moschea. Però dentro ci sono i macchinari, come vedete, dell'acqua, e però tutte le, anche gli ornamenti, la struttura interna, una struttura di moschea, però non ha mai, cioè è stata sempre una stazione di pompaggio. Questi sono dentro i macchinari. Adesso arriviamo, torniamo nel... Dove stiamo tornando? Nelle Alpi. Sì, siamo a provincia di Lecco. Questa è una storia interessantissima in Italia, storia urbanistica, ecologica. E questo è un paesino di poca famiglia, di poca case, che nel 60 viene acquisito, siccome non, almeno da quelle documentazioni che ho letto, non risultavano né la casa né la terra registrate a nome di persone. E quindi un imprenditore immobiliare ha acquisito con pochi soldi questo borgo e l'ha demolito completamente negli anni 60, 62 precisamente. E siamo a Milano, un grande sviluppo economico, insomma il popolo alla ricerca di nuovi divertimenti, di nuovi svaghi, e questo è stato chiamato Las Vegas della Lombardia o del provincia di Varese, quindi Las Vegas della Brianza. Perché l'imprenditore vedeva questa gente che si è comprata il 500, quindi volevano un po' uscire da Milano, quindi un luogo vicino, e si è costruito questo in quel paesino che era specializzato nella produzione del sedano e del porro. E quindi la famiglia ha dovuto sloggiare, andarsene, è rimasta solo la chiesa del paese. E quindi questo paese, per orientalistico come vedete, per una decina di anni ha funzionato come Las Vegas, no? Quindi il modello americano, un piccolo bonsai in miniatura, anche qui saloni alle mille e una notte, gallerie per le signore dove potevano comprare nuove mode, nuovi stili di abbigliamento, sala giochi, ristoranti e altro. Però nel 68 viene una frana, perché siccome la ristrutturazione di questo paese e la demolizione anche di una collina intorno ha smosso quindi l'equilibrio del terreno, quindi nel 68 è venuta una frana e ha chiuso le strade, ha distrutto una parte di questa struttura qua, e quindi il paese poi dal 68 fino ad oggi è stato abbandonato, se non alcuni discendenti di contadini che coltivavano il porro e il sedano sono tornati a fare dei tentativi di creare, insomma, intorno alla chiesa, che non è mai stata abbandonata, un piccolo museo. Pensare, insomma, adesso questa notizia risale al 2011, per ripristinare qualche vita in questo paese qua, che è di nome Consonno, il nome di questo paese, Consonno. Questa è rimasta, vedete anche qui il minaretto, ci sono delle sfinge, ci sono della pagoda in questo luogo qua. E questo che conoscete? Sì. Dov'è? Sì, è nel Trentino, ma c'è... Trentino, Moena, ogni anno c'è una festa, Val di Fassa, Moena, la prima fine settimana di agosto viene festeggiata la festa della Turchia. Interessante la storia. E quindi c'è proprio un rione del paese di nome Turchia. E durante questi giorni vengono appesi la bandiera della Turchia da tutta la finestra del paese, strada di Turchia, al mezzo della piazza del paese c'è questo turco genizzero magari un busto dove sempre c'è la mezzaluna e la stella rossa. E la storia è: perché mai a Moena un rione Turchia e viene festeggiato? Quindi qualche cosa di radicato dovrebbe esserci. La storia raccontano, però io racconto una delle versioni che mi sembra la più plausibile, che sono fuggiaschi dopo l'ultimo assedio di Vienna, che risale al 1683 da parte dei turchi ottomani. Quindi molti dei soldati erano allo sbando, e quindi alcuni in qualche modo arrivato qua sfinito, ammaccato, distrutto, quindi viene accolta della gente, poi insomma vengono nutriti, puliti, insomma, e si dice che la gente ha donato loro un pezzo di terra che è diventata rione Turchia. C'è anche la leggenda. Da noi in Alto Adige ci sono tantissimi posti, in ogni paese quasi, un punto di ristoro che si chiama Elefante, dedicato all'elefante. E anche questo è legato a passaggi, no? A passaggi Anibale. Di turchi. Anibale. No, Anibale no. Anibale. No, è più recente. Più recente. Di morte, sì, di ambasciate, quindi arrivavano con gli elefanti e questo animale ha... Sì. Sì, c'è tutto a proposito della funzione dell'animale. Sì. L'elefante, come altri animali esotici, hanno una forte presenza in molti quadri di pitture in Europa. Perché venivano dati come regali, come... Sì, quindi qua viene durante questi tre giorni c'è il sultano, c'è un corteo, tutti vestono alla turca. La cosa interessante è che siccome ci sono adesso immigrati arabi, quindi non hanno problemi poi di trovarsi con i loro vestiti tradizionali dentro questi cortei. Altra curiosità per finire questa parte qua, e questa, io sono partita con la prima immagine del barocco moschea in Nigeria. E questa è un'altra stranissima moschea, anche questa è una chiesa ortodossa, però in Indonesia, è di recente costruzione. Bene, adesso io chiuso questa parte qua e andiamo alla parte fine qua, siete contenti? Sì. A parte le sgrida? A parte? Le sgridate? Cioè, ma no, vabbè, fa parte delle performance. I libri sono due. Cipolla bilibre. È quella la abbiamo beccato in errore, solo uno. Orientalismo e altri dipinti, ecco. Vedete, grazie Alessio, questa è la terza parte. C'è stata la promessa didattica, il tournée turistico e l'Oriente vista dei pittori qua francesi. Ci sono anche pittori italiani, si sono cimentati, naturalmente anche le gallerie italiane, i musei italiani sono pieni di questa pittura. E qui vedete questo, sempre siamo più o meno nella seconda metà, siamo nel 1850 più o meno, tutta questa pittura qua. E questo Bouchard è una del Oriente, dove venivano spesso immaginate le donne, perché questo è interessante, l'Oriente arabo slavico, o la donna coperta, quando si fa, come dire, nel linguaggio, diciamo, recente politico, quando si vuole, insomma, dare una certa immagine delle donne, o nella rivista turistica, spesso no, c'è l'immagine delle donne di Visca. Infatti Renoir, Matisse, diversi pittori hanno dipinto le Odalisca immaginate leggendo La Mille e Una Notte. Il libro della Mille e Una Notte è un libro pieno di, come dire, storia, di, come, anche di sessualità spinta. Cioè, raccontate del popolo nei mercati, nei palazzi dei principi. Perfino questa storia qua, pensate che l'Inghilterra quando hanno tradotto Mille Notte l'hanno censurata, questi racconti qua, mentre il mondo arabo slavico erano raccontate per strada, no? I tempi cambiano. E quindi la presenza, sempre Bouchard, no? Dopo il bagno, sempre donna nuda o seminuda, e, vedete, è all'interno del harem. E sempre siamo l'odalisca, la schiava, sempre questa immagine del bagno turco, Renoir, un altro pittore, Giraud, l'odalisca che balla, gli uomini che guardano, il bagno pieno di donne nude. Quindi harem, odalisca, bagni turchi. Questa ha avuto una pittura, ha avuto una fortuna, e come del resto ha avuto fortuna il libro delle Mille e Una Notte, un libro che per quasi dall'inizio del 700, 800, 900 e con sonno, quello che abbiamo visto nel paese, Las Vegas della Brianza, degli anni 60 del secolo scorso. Qua finalmente i commercianti che vendono tappeti e gli uomini che pregano, quindi o commercianti o si dice voranti. Di nuovo l'odalisca. Di nuovo le donne che cantano, ballano, fumano narghilè e con un bagno vicino, il muadzin che fa le pelle alla preghiera e un'altra odalisca che guarda dalla finestra, del balcone, e qui di nuovo donne che vivono una vita di lusso, di riposo totale e di piacere infinito. L'invidiate, vero? Sì o no? No. Più il pittore. Com'è? Più il pittore che aveva tutta questa fantasia. C'è un no, interessante, alcuni. Giraud. Adele. Di. Sì. C'è un intruso in quel quadro lì. Sì. Chi è? Chi è? Quello che sulla torre. No. No. Sopra c'è. Quello lì è uno smiley. Sì, uno smiley. Questo è il prodotto del social network. Di questi pittori, due sono stati in Turchia, in Egitto, in Algeria, in Tunisia, quindi hanno avuto, diciamo, da vicino delle esperienze. Altrimenti quasi buona parte della pittura orientalistica è stata basata sulla lettura delle Mille e una Notte. Vado in castigo. Quindi io penso di aver detto la cosa che mi sono, insomma, programmato, e vi lascio adesso, insomma, il spazio per delle domande, per delle possibilità, delle considerazioni, se siete soddisfatti. Abbiamo finito anche presto. Ah, io pensavo di parlare per un paio d'ore invece. E non vai. E non bevi mai, hai una gola che... Ci sono domande? Curiosità? Siete a capo? No. Di troppo edulisca? Troppo edulisca. No, stavo pensando alle cineserie. Sì. Perché si diceva prima che c'è stato questo periodo che andava di moda nell'Ottocento. Sì. E noi qui a Bressanone, diciamo prima, nel Palazzo Vescovile c'è una stanza dedicata, decorata proprio in stile cinese, quindi era probabilmente un richiamo a questo raccoglimento, non più solo spirituale, ma aveva una, un suo, era un angolo creato apposta per un ricevimento, ma in una maniera, sì, con un piacere particolare, con un dedicato solo all'ufficialità. C'è un palazzo che è stato, credo, acquisito anche del Benco, vicino a Piazza Walter. Menz. Anche lì ci sono delle affreschi, sì, che dove ci sono simbologie orientali. Beh, era anche forse la, la voglia di confrontarsi con quello... Con l'idea del viaggio, no? Anche, cioè, il Grand Tour nasce in quegli anni, la gente inizia a spostarsi, chi ha la possibilità, no? E quindi porta nuove suggestioni, nuovi racconti, no? Tu hai portato bellissimi esempi, no? Come nella pittura, la necessità di vedere quello che in realtà, cioè, per noi adesso vedere un'immagine è la cosa più banale del mondo, accendiamo il telefonino e ne vediamo 100 nel giro di un minuto, no? Al tempo invece no, avevano un'altra forza ed erano rare e preziose, quindi sicuramente c'è, cioè, tutto legato un pochino a questa voglia del conoscere quello che sta fuori, anche l'Expo, no? Pensare a, certo, l'Expo ha meno senso, se vuoi, sì, no? Sì, una, sì, volta, sì, era proprio il poter vedere il mondo a casa propria, no? È una forma di pubblicità, possiamo dirle di oro, no? Utilizzando, certo, termini di... Ma dell'Expo si vedevano veramente gli altri paesi, in questo caso era più l'immaginazione nostra, quando fai vedere Cremona, quando fai vedere tutte le cose che ci ha fatto vedere dell'Italia, erano comunque degli eccentrici, delle persone che avevano magari la possibilità e che in qualche modo interpretavano un gusto così arrivato da racconti, da altre immagini o da viaggi che avevano fatto, no? Allora, era un modo anche per condividerlo. Grazie, delle, una ottima considerazione. Il vostro silenzio è incomprensibile per me. Non vogliamo farti affaticare. No, ma questi luoghi davvero che sono da vedere, no? Del vivo. Io nel mio peregrinare, girovagare per l'Italia, io, la cosa che... Questa è una ho notato questo, che nonostante in alcuni luoghi, per esempio Cremona, quella Rocca Mattei vicino Bologna, San Mezzano, quel palazzo orientalistico lì a provincia di Firenze, Lecco, nel senso che io sono stato da quella parte lì, ho incontrato anche a Moena, ho incontrato delle persone, ho fatto delle conferenze in molti di questi luoghi o luoghi vicini, a volte anche formazione per degli insegnanti, ho avuto scuola estiva, insomma, però nessuno di quelle persone che venivano alla conferenza o alla formazione o alla scuola estiva, che gente si occupava di questi temi, questi luoghi io l'ho scoperto per caso, nessuno me l'ha, no? E questo è interessante, che è come si costruisce l'immaginario, no? Io ho amici proprio abitano di fronte a quella casa di Cremona, eh? Io un giorno mi hanno ospitato, sono uscita di casa al mattino e poi vedo un minaretto che è familiare rispetto alla mia infanzia, no? Ho chiesto, ma scusate, ma come mai non me l'avete mai detto? E questi luoghi qua non li troviamo quasi su nessuna guida turistica, la guida dei luoghi. E quindi anche le memorie che abbiamo, la percezione del nostro territorio è molto parziale, perché si vuole dare un certa immagine del territorio per non... perché la memoria in sociologia non è il luogo solo di ricordi, ma il luogo dove si depositano gli attrezzi per condurre il proprio presente, quindi è una costruzione. Allora si costruisce la memoria in un certo modo, si cancellano alcune cose, si esaltano altre, e dico, com'è possibile che un studioso di storia di Firenze non mi ha mai detto di San Bezzano? Ho un amico insegnante, ricercatore a Bologna, attentissimo a questi temi, non mi ha mai parlato di Rocchetta Mattei. Questa cosa qua mi ha fatto pensare, quindi io, quando poi nel mio girovagare, fotografando, raccogliendo, ho cominciato a mettere insieme quella che non è presente nella memoria. E quindi questo capita spesso, che la storia che viene trasmessa è una storia non recepita dalla memoria, quindi la memoria non corrisponde alla complessità della storia. Sempre ci raccontano, per esempio, ho ricordato l'ultimo assedio di Vienna nel 1683, che è raccontato come fosse i viennesi da una parte e gli ottomani dall'altra. E poi, leggendo alcuni libri, ascoltando alcuni studiosi storici importanti in Italia e visitando i musei vaticani, in uno dei corridoi ho visto un gigantesco quadro è dipinto Re Subeischi, il re che ha dato mano ai viennesi contro gli ottomani. Però la cosa curiosa è che una parte importante dell'esercito polacco erano musulmani. Erano musulmani, e dall'altra parte con gli ottomani erano molto soldati cristiani. E quindi sembrava che da una parte i cattolici e i cristiani in generale, e dall'altra parte i musulmani. Invece, se uno va a vedere i dettagli, però questi dettagli che sono importanti non si ricordano che da una parte e l'altra c'erano, no, un misto. Anche l'esercito austro-ungarico nella guerra mondiale aveva un esercito di bosniaci che erano musulmani. Qui nel cimitero dell'Alto Adige, esatto, ci sono ancora la tomba dei soldati bosniaci rivolti verso la Mecca. C'erano i marocchini nella seconda guerra mondiale. Bravo, i marocchini, per esempio, l'esercito, i soldati di Franco, il caudillo, che è una parola araba, vuol dire il capo, attraversando lo stretto di Gibilterra, le sue divisioni erano quasi molti marocchini. Non erano cattolici spagnoli, non erano castigliani, non erano catalani. Così come diceva Tritan, nella seconda guerra, molti soldati del Marocco, dell'Algeria, che sono morti sul confine tra l'Olanda e il Belgio, no? La linea della trincea, sono decine di migliaia di soldati musulmani. Non a caso, la moschea di Parigi è stata regalata dalle autorità francesi come riconoscimento del contributo dei soldati musulmani nella guerra. Un altro dettaglio A Berlino nel 1900, qua non l'ho più trovato, a Berlino, adesso forse in questo lo trovo, nel 1915 a Berlino è stata costruita una moschea di legno, spero di trovarla adesso, no, non c'è. Nel 1915 una moschea di legno è stata costruita durante la guerra con la finalità di far passare, cioè nel senso che i soldati musulmani combattevano in parte con gli inglesi e francesi perché avevano i domini coloniali e alcuni erano con la Germania. Allora ognuno della parte in guerra cercava di, quando prendeva gli ostaggi, no? Di soldati musulmani, venivano trattati quasi meglio degli altri, così per permetterli, come dire, persuaderli di passare con il nemico, l'ex nemico. Sì, contro l'ex nemico. Quindi questa moschea di Berlino di legno è stata, insomma, distrutta a seguito di un incendio, ma adesso io non lo trovo, ma ve l'ho detto. No, dicevamo, a proposito di memoria e storia, la chiesa cattolica di San Luigi di Francesi a Piazza Navona a Roma, quando venne intrasso il primo pilastro all'interno della chiesa, trova una insegna dove si dice la Repubblica Francese ringrazia i soldati algerini, marocchini che hanno dato grande contributo per liberare l'Italia dal nazifascismo. Però questi soldati sono stati accusati di grandi misfatti, di stupri, e si dice che sono stati naturalmente incoraggiati dagli ufficiali francesi. Infatti ci sono ancora i tribunali, credo, italiani, sono aperti i fascicoli su sulla questione lì. Per concludere questa rassegna un po' turistica, un po' insomma pittoresca, era per dire che come riuscire a ripristinare una memoria capace a comprendere i dettagli della storia, perché la memoria che si ha rispetto anche il proprio contesto è sempre parziale, sempre raccontata in un certo modo, è sempre raccontata in un modo funzionale al presente. Per esempio il Risorgimento italiano, ho raccontato in un certo modo come è diventato, come fosse, come dire, la storia ufficiale. Però se uno va a sviscerare un po' di più e scopre che il Risorgimento è stato anche una rottura nella società italiana, no? E tra insomma, tra vecchi modelli, nuovi modelli, e quindi per cui la storia comunque si racconta spesso esaltando alcuni aspetti a scapito di altri. Credo che oggi, nel tempo oggi della globalizzazione, della mondializzazione, della migrazione, dei contatti, di telefonini in tasca, no? Che ci fanno qui attraversare i confini continuamente, il telefonino una volta il confine voleva dire il filo spinato e trincea, dogane, carabinieri, polizie, eserciti, e oggi il confine, no, lo possiamo tranquillamente passare e ripassare continuamente, no? Viaggiando, attingere informazioni o imparare lingue o accedere ad altri luoghi. Quindi quello che dice, per cui anche la memoria e la storia che ci ha segnato questo Oriente Occidente oggi ha bisogno di essere tutti i confini, tutti i confini, sì, di essere, come dire, relette alla luce di oggi. Sudafrica e Oriente Occidente, dove sono i bianchi occidentali, insomma, quella che dico, Caledonia, Caledonia, che è un territorio francese, è occidente, no? L'isola Maillot nell'oceano indiano è occidente o oriente? L'isola del Caraibi che è di territorio francese. Cioè, poi se io chiedo a qualunque persona, buona parte delle persone si dico quali sono i confini della Francia? Mi dirà la Spagna, no? L'Olanda, il Belgio e l'Italia. Giusto? Invece la Francia ha i confini nel Caraibi, nell'oceano indiano, ha i confini nell'oceano, no? E quindi per cui vuole dire oggi quella che ha i confini di terra con il Brasile. Confini di terra con il Brasile, perché c'è Suriname francese, per cui e oggi credo che in questi tempi qua abbiamo bisogno di una memoria che è capace è accogliere la complessità della storia. E con questo, cosa dite voi? No. Degli equilibri geopolitici e del ruolo della Francia, ma questa è un'altra storia. Sì, sì. Ci vorrebbe un'altra serata. Per cui, vabbè, tramite questi alcune immagini abbiamo cercato, almeno ho cercato di offrirvi un momento di viaggio nella storia della nostra piccola umanità, che spesso crede di essere molto grande, invece rimane sempre piccolo rispetto l'universo, rispetto alla storia, no? Bene, vi ringrazio tanto.